Altri suoni, la rubrica con sonorità, per così dire atipiche, su Radio Città Fujiko. Non vi è una giornata esattamente indicata all'interno del Breakfast Club, diciamo che come così particolari sono i suoni che ascolteremo, la programmazione è quanto mai non proprio costante, quindi non vi è un giorno indicato. Vi posso dire che il martedì solitamente prende posizione nello spazio tra il GR e la rubrica culturale della settimana. Quindi direi di iniziare con un musicista austriaco, Bernhard Fleischmann. Inizia la sua carriera come batterista. Lui nasce nel 1975 a Vienna. È un musicista che nelle sue caratteristiche di ambient e minimal ambient, per essere più precisi, anche se la definizione sta un po' stretta, porterà un aspetto concreto di ritmica e allo stesso tempo di sonorità analogica registrata con l'utilizzo anche di microsuoni come microsensazioni che possono essere riportate da strumenti giocattolo oppure parti registrate non da strumenti ma da, per così dire, noise, un aspetto rumoristico che ben costruito e ben riportato all'ascolto ne farà uno dei musicisti nel contemporaneo più originale. Inizierà, come ho detto, da batterista per poi passare a queste sperimentazioni. Il primo lavoro che stiamo già ascoltando, che fra l'altro ho avuto da Thomas More, il produttore della More Music, la label tedesca che porta questi suoni nelle produzioni appunto B. Fleischmann, il disco già partito in questa piccola playlist è Pop Loops for Breakfast, e quindi sembra fatto apposta per iniziare questo ascolto in altri suoni. A tra poco. L'elettronica è presente in questo aspetto noise, che può essere un cambio di frequenze, può essere tratto anche da un apparecchio che non riesce a trovare la frequenza giusta, e in questa ricerca portare soprattutto una ritmica, parte aggiuntiva di un minimal ambient che è costruito in maniera quanto mai originale. Beh, questo musicista che abbiamo conosciuto e che stiamo conoscendo ha pubblicato tendenzialmente per la More Music questo disco doppio che vado a portare dopo l'ascolto di Pop Loops for Breakfast, sempre per la label tedesca, è Tourist, un lavoro doppio che, diciamo sempre con le giuste considerazioni, è stato il lavoro che ha sdoganato Bernhard Fleischmann, in arte B. Fleischmann, a un pubblico attento e curioso per quanto riguarda questi particolari e originali ascolti. l'effetto noise, la costruzione acustica, l'aggiunta di quello che può essere in analogico una struttura presa da sonorità con strumenti giocattolo o altri strumenti atipici. E per quanto riguarda Bernard Fleischmann, la composizione per questa playlist, anche se in maniera così immediata, giunge a conclusione per lasciare spazio a un altro musicista, questa volta tedesco, sempre per More Music. Le componenti che ho appena descritto sono quelle, lui è Frank Schlüge, classe 1968. Per quanto riguarda le sonorità, in comparazione sono più noise se vogliamo, ma senza mai dimenticare quella che può essere una ricerca anche nell'aspetto leggibile. Infatti viene definito pop ambient o minimal ambient le sonorità selezionate per questo Altri Suoni. Frank Schlüge con lo pseudonimo F.S. Blum, anche lui compositore per la More Music, la label tedesca di Thomas More. Alternanza di composizione tutt'altro che banale, ovviamente. Fesh Bloom, sempre per More Music. E quanto vorrei, siccome spesso ci si riempie la bocca, no? Il jazz ha rotto gli steccati, non si può più parlare di jazz come interpretazione hard bop, come ci immaginiamo, quindi deve esserci un ragionare in jazz. Ecco, questo è un ragionare in jazz, e quanto vorrei vedere all'interno dei cartelloni concertistici dei più grandi jazz club anche la presenza di queste sonorità. Qualcosa ovviamente arriva, ma come ben sapete la mia ingordigia musicale è quanto mai presente. Allora andiamo verso la conclusione, ne do a piccole dosi di questa musica, di queste pillole musicali, perché mi rendo conto. Quindi con Wet Axel Garland, anche lui tedesco, altro artista che a me piace tantissimo. Qui l'aspetto minimale, l'utilizzo del silenzio, il gusto, l'astrazione, il piacere per il distacco è una caratteristica fondamentale per l'ascolto di questo disco, che riporta il titolo omonimo, Axel Garland, che termina la nostra selezione di altri suoni. A breve il Mood Groove. Io vi ringrazio per la pazienza oltre che per l'attenzione, e per quanto riguarda Parquet Filosofia e lo speciale dedicato all'Olimpia Milano, campione d'Italia 2022-2023, a breve l'approfondimento sui 103.1. A tra poco.